attenzione. Attenzione, 10, prego. Tocco una su 10. Vabbè, e poi mi stavo finendo di verniciare delle ringhiere, il cancello quello grande del passo carraio dove entrano le macchine, e sto verniciando tutte le porte delle caldaie. Devo pulire ancora, però con il tempo buono, il vascone dell'antincendio che non è mai stato pulito, quindi devo scendere dentro. Ma quelle sono cose che facevo anche nel mio lavoro, capito? C'è un agio che fa, ti lascio impegnato, non ti preoccupare. Si fa quel che si può. Io, beh, si ferma adesso. È una decisione che mi spetta di diritto fermarmi, però io non ci so stare, così sta tutta lì, lampado a casa, io non sto buttato il bar, capito? Quindi, la domenica mattina, magari vado a prendere un caffè di sabato, se no sono qui, oppure sono in campagna, se è bella giornata, capito? Perché anche lì c'è un sacco di cose da fare. Ora da giù ti gioca a Monteoro, non so Gaussi. Eia. Abbiamo finito di mettere le ringhiere, le cose, insomma, un sacco di cose sono da fare ancora. Però si può già rimanere lì, non c'è problema. No. Sono riuscito fortunatamente a fare un cambio. Non mi piace la zona. Sì, inizialmente sì. Guarda su WhatsApp nel mio coso c'è, come si chiama, lo stemma dello Stato, lo stemma che ti esce su WhatsApp, c'è la, già la vedi la casa, ti puoi fare anche il bagno volendo, guarda bene. E via. I mai siano edifici di Bratte, Cappuccia di Lucino. È costata circa 40.000 euro. Lo so, no, questa estate siamo divertiti un bel ma divertiti però, quelle gambe, bella, molto bella. E vabbè, piacere da fare ancora. Mi fa male tutta la mora di Rugoto, già io soffro di cervicale, sto prendendo un freddo allucinante. E mi va dei geruti, a 60 anni mongo i geruti, ma prima lo devo fare oggi, adesso ormai è cronica, non servirebbe a nulla i geruti. No, ci veniva entrato, quando è? Boh, l'altro giorno, giusto così a fare scaldare un attimo il baracchino, perché sta facendo lavori, spostamenti a casa, che lui è incasinato, capito? E poi sta lavorando anche, quindi fine settimana è impegnato a casa. E la sera quando esce, se arriva presto a casa, si mette a fare, quindi deve finire lì, deve finire, se no è in alto mare. Ho entrato nessuno stasera, guarda giù. Già le 7:10, passate. Sì, che non me la giunta io entro. Io ho 7:15, stacco, mi vesto, mi preparo, esco un po' col cane, quest'acqua, adesso non sta più piovendo, sta piovendo però di meno, ho mollato, quindi me ne vado sotto il giardino. Sto cane tutto il giorno che sto chiuso in casa, allora che arrivi l'estate a mollarlo in campagna, che sta da Dio, cazzo, si diverte da morire. Ehi, 7 anni c'ha, 6 anni e mezzo, quasi 7. Ehi, ma il mio non è un cane che dura 20 anni. 9-10 anni e non voleva di più a camminare. Sono molto debole di cuore questi cani. E vabbè. Vabbè, lui c'ha già tutto pagato, il funerale, la bara, tutto pagato, già tutto pronto. Lui ha detto, usciti il lampo, il funerale, certo, funerale, viene il dog, city dog, lo prende, lo porta al cimitero dei cani, pago 120 euro, così posso andare a trovarlo, no? E allora, cassonetta di un lampo di un cane, non gli compreggio, certo, viene, te lo prende, dove vai? C'è un microchip mio, mi è scritto l'anagrafe, non è che lo sotterreggi in una cosa, ti vuole il certificato di morte quando è così il cane, lui viene, ti fa il certificato che il cane è morto a talora, eccetera, e quello devi tenere, perché se ti viene un controllo devi dichiarare che il cane è morto ed è stato portato via questo certificato di morte. Se c'è un microchip, buffo energy per il cane. Allora che io voglio sentire a te vado a te quando muori. Vai, finire oggi. Finiscila, il cane per me è un cristiano. Io sono amante dei cani e faccio le cose che la legge mi dice di fare, capito? Ho scritto l'anagrafe, è residente qua, è tutto, è microchippato, perciò c'è il servizio veterinario, no? Chiami, viene il furgoncino, non hai mai visto quel furgoncino giallo in giro? Bobby City, quello lì, viene, te lo prende, ti rilascia la documentazione, tu le dai il libretto, tutto, capito? E lui va al cimitero dei cani, c'è il cimitero dei cani, e se ne occupa lui, e tu sei in regola. Ma che ho fatto che non faccio manco un coraggio di visitarlo, per il cane che è, per come è stato, per come si comporta e tutte cose, quindi è meglio che se ne occupi lui. Paghi 120 euro, il servizio te lo fa lui. Certo, fotografia, la croce, e gli attacchi la sua foto, e allora, tutto bisogna fare, tutto, cose fatte bene. E non pensate da usare, manco il contenitore del lume, lo pensate Filippo. Giulio. Lui. Ma i canali del cellulare, ancora non corrispondono oggi normale, no? Così che sono altre cose. Assolutamente, non lo so. Ma penso di no comunque. Con un sistema digitale computerizzato. Noi siamo diversi. È un'altra guba liscia. No, ma non mi piace, no? Io se devo entrare in radio, entro in radio, se devo telefonare, telefonico, certo. A mali estremi, mali dei medi, come ti si dice, in caso appunto c'è qualcuno, non c'è nessuno qua, se tutti sono lì vado anche io, ma a me piace proprio dare la radio, non c'è un telefono in mano, già il telefono lo odio io, per carità. Ma anche per i camionisti, oramai nel 5 non c'è più nessuno, se tu vai nel canale 1 lì, cioè nel canale dei gruppi praticamente, non quello canalizzato, no, quello internazionale, lì l'1, il 5, l'8, è tutto pieno di camionisti, capito? Quindi per voi va bene, perché siete, non, magari c'è gente che non ha il baracchino, le fa inserire quell'applicazione e vi sentite così. E neanche a me, te l'ho detto, però ti ripeto, se dovesse servire si può usare anche quello. Non stai con queste antenne in macchina, tira e molla, capito? Ma va bene. Anda bene. Bene, mi accoppi di radio, sto usando 430, uguale come sempre. Non stavo più usando. Oggi visto che stasera non abbiamo lavorato, mi sono dedicato a questa stanza, ho tolto l'altro piano che c'era, non ci fa più niente, ormai il radio ne ho poco. Ci ho montato tutto, capito? E me le porto via, e no che le rago. Prendo te a fagoccia. No, non devo mandare niente. che c'è l'indispensabile, l'IHF, le V, le U, non è che tutto il mondo l'ho fatta fuori, non ce ne vai. Ho finito anch'io in metà l'ubivolo, c'è la polvere che si mette e poi è un casino. C'è una matassa di cavi allucinanti che scendono dalla finestra. Anzi, facciamo poi manutenzione alle antenne. E poi quelle grandi le smonto, lascio solo una verticale e basta. Il resto smonto tutto, non ci fa più niente. Eia. Buonasera a todos. Giorgia, buonasera. Adesso sta piovendo a dirotto qua, poco mi è salito il QRM a Santiago Nofre. No, qua la verità forse perché tu sei in alto, ma... adesso sta piovendo, ho visto che sta piovendo. Purtroppo... il microfono già. Non stai uscendo di radio, come mai? Già, non stai uscendo di radio, che è successo? Si prende solo un bip e buco. Nine, controlla il microfono, controlla. No, no, no. Ma vedi che ti rende, cazzo, mi hai staccato qualche filo. Vedrai, tira, ti tira. Ah, già, mi hai staccato qualche filo, non stai uscendo. Ma tu sei duro, un bip, cazzo, non vuoi più guadagnarmi, vai. Ci ha messo il BP uguale, vabbè che l'Urano è sempre della serie Galaxy, il BP uguale. Adesso scendo sto. Yes. Infatti è attaccato a tre apparato. Probabilmente è successo che ci sarà polvere, era da un po' che non lo usavo. O è scarica la batteria. Sì, vabbè, questo non è. Non è male. Già vabbè, c'è per aprire le cavette, ma la tua modulazione è sempre ottima, l'altro è bellissima, molto forte, bella, bella pomposa. E anche questo qua già va bene, mi sta ascoltando tanto, già va alla grande. Ho detto oggi come stanno le tue belve? Ehi. Vero, viva! Ma quindi stanno liberi, liberi anche fuori. Sì, sono grandi, sì, sta libero, lo lascio libero, ma non sta male. Ah, cavagala, ma sempre dentro il recinto della casa, va? Sì, sì, va bene. È entrata lì la volpe, dentro il tuo terreno, va? Sicuramente. Ma non puoi manco entrare così. E non puoi manco entrare. Oh, yeah. Cava cava. Vabbè, vabbè. Claudio, Claudio, come mai così tardi? Vi ho chiamato verso le 5 e mezza. Buh. Già, stavo smontando la base. Io ho la base L, no? Adesso ce n'è una solo, quella attaccata al muro. Quella L l'ho tolta, quella verso la finestra, perché tanto la vuota, c'era solo il computer. Il computer me lo sono spostato, il monitor l'ho messo sopra il DAC e la tastiera sotto. Non ci faceva niente, era solo a pulirla tutti i giorni, alla polvere e basta. Perché le radio le ho dimezzate, il resto ho tutto smontato, già messo nelle scatole. Luca mi sono fatto ordinare il cavetto che non ci arriva dal tesi del computer al monitor, capito? Il cavo, quello VGA, una prolunga da 2 metri, arriva a fine settimana, però mi ho già preparato tutto, mi ho fatto pulizia e poi mi sono sdraiato un po' perché oggi abbiamo finito a mezzogiorno di lavorare, stava piovendo, capito? E quindi ne ho approfittato a farmi queste cose perché sennò non c'ho mai tempo di fare niente qua. Ah, ma le volte già ce l'avevi acceso, sì. No, già, avevo tutto abbassato perché ero in mezzo ai fili della corrente, spostando, facendo, capito? E quindi faccio uno spazio allucinante. Quasi quasi ne scendo il divanetto che c'ho su, una sarda, e lo metto. E quindi ho fatto una bella pulizia oggi, mi sono dedicato a fare questo. Così mia moglie può pulire meglio, perché c'era quest'altra base a L, solo che sotto c'erano le fette di ferro che ha messo Giulio per mantenere la base oltre i piedi per, come rinforzo. Quindi ho coricato sotto, smontando le viti, mi fate male, male, male, tutta la mora di un good. Via, vabbè, stai restaurando tutto. Sì, già più che restaurando sto iniziando a... Perché poi mi viene male, cioè... Nel momento in cui viene uno e mi dice, ok, la casa la compro, e dove sta? Un mese voi vendete tutta la roba, invece piano piano mi sto lasciando le cose essenziali, e portandole via, capito? Qua le cose essenziali ce l'ho, l'HF, e fino a quando le antenne sono attaccate, le V, le U, il 430 e il 440, il resto ho tolto tutto, e se no... Un mese ha smontato tutti gli occhi e una base solo, l'altra l'ho eliminata. Claudio, la batteria è scarica, adesso vi sto provando. Niente, non fa, no, non si muove mai con la lancetta dello Smith, del coso, che c'è quella che segna la potenza. Ma infatti si è sparito di colpo. No, se non si muove anche il mio lo fa, l'MB più 4, cioè l'MB più 5 c'ho io. Se non si muove l'ago del segnalatore del microfono, no, la batteria vuol dire che è andata. Vabbè, meglio così, dai. Non è un problema. Metti la batteria nuova e si è a posto. E infatti, domani la compro. Perché ce l'ho qualcuna, ma non so se siano cariche, non me lo ricordo. Adesso guardo, le misuro col tester, aspetta. Sì, infatti, prima di montarla già, misuro col tester e vedo un po' se è carica o scarica. Caro Eugenio, così esse. Via Garuri, a Garuri, Canada, ammazzere, bah. No, io un'altra settimana mi sento con i vecchi colleghi e guarda, rimpiango poveri, soprattutto quelli che sono nella mia zona, ovvero io prima, Trenta Lagurto, Badesi, quella zona e altre così, mi ha detto qua, cazzo guarda, ti invidio, mi ha detto un collega. Un ex collega, detto, perché la mattina c'era cagarsi sotto, era giù di Triarusai, quante volte d'inverno non ci dava cuore a scendere e scendere la macchina a fare i controlli, un freddo cane c'è in quella zona, un freddo cane, cazzo, mamma mia. Altra zona vedda, chissà mia, oltre al freddo e umidità perché sei nel mare, io arrivavo fino all'isola Rossa a Porto, figurati, c'è un impiantino di sollevamento che poi manda al depuratore di Marinedda, lì della Marinedda, e tu immaginati che la porta per entrare nel sollevamento e negli scugli dietro, sotto, praticamente rimane sotto la strada questo sollevamento, e quando vuoi mai entrare devi stare attento perché le onde arrivano sino a un metro da te, capito? Quindi lascia perdere. Ha giubilato di barriera di leva, di freddo, di tutto. Adesso largo ai giovani. Non perché io sia vecchio, però io i miei 30 anni lì me li sono fatti. Quindi dal 91 fatti un conto, più quelli che ho lavorato all'Enica, a Polesi, a Cagliari, alla Saras. Però 30 anni vecchi. Sempre mantenendo i chilometri a destra e a sinistra, lascia perdere, meglio nulla. Ehi, non è nulla intanto, dice che ha fatto la salita, ma anche quella di oggi non era male, la mattina ha girato un po' e si è calmato il vento, ma quando ero giù io, infatti l'operatore dell'autoscala non saliva più di 10 metri. assolutamente, rimanevamo un po' bassi, sta terminando tutto tipo giù, capito? Perché quando fermava la Toscana la vedevo che ballava un po', infatti io scendite, non facciamo domani, no, ci finimmo, mica che avevamo cominciato, c'è Biglielucci, e così ha fatto. Poi a mezzogiorno è iniziato a piovere, allora il pranzo, e abbiamo deciso, la Toscana l'ha parcheggiata, abbiamo deciso di non fare niente. Oggi la sicurezza e la salute è la prima cosa, e allora meglio lasciar perdere. Va bene. E lui ci avete l'ingresso alla nave, tutte le cose, carico, no, è buccia di giocare. Facile a parlare, ma non funziona così. Io sono qua, io non c'è problema. Fino alle 7:20, ancora 10-15 minuti e poi stacco io. Così mi sistemo il cagnone e è giovinito. Bravo, hai fatto. lasciare goce, ma non pulire la puzza. Forse il cacciavitato è un conto, lo metti sotto strumentazione e già si mette a posto. E componenti che hanno sostituito, messi al contrario, componenti che non sono i suoi, un casino hanno bruciato tutta la pista, pazzi, infatti l'ho detto tienilo, tu mi hai detto tienilo, io l'ho tenuto, non so mai, però non serve, proprio da buttare via. Ma quello è una cosa seria, quello è un bel baracchino, e poi è nuovo. Poi lo metterai a Marco, Marco non si mette a toccare niente, no? Come l'abbiamo cacciato? Tu ricordi quando me l'ha dato, l'abbiamo portato in casa, lui e lui, i figli. Ogni tanto faccio il pennello, lui lo pulisco bene. Così deve essere, non si tocca niente, no? Non si tocca nulla, niente. Niente, non si tocca niente, capito? Perché io con tutta l'esperienza che ho, radio non mi docco, perché non mi so buono a toccarmi. Cosa me devo mettere a toccare, a sfasciare? Si porta chi intanto c'è la strumentazione, chi è capace a fare le cose, a chi te li vuoi fasciare. Se non vi so buono a farlo, la chissà. Esatto, va bene, funziona bene, non lo tocchi. E tutto procede a capo dell'orologio. Quando ti metti a toccare le cose che non sei capace, io faccio le cose che sono capace a farle. Quelle che non so farle, pago e me le faccio fare, capito? Perché deve essere così. È inutile che ti metti a pacchicciare. A pacchicciare bisogna buoni tutti. Una capsula, un connettore, una gazzata, io mi sono cambiato il relè di una radio, cioè stronzate, ma quando tu ti metti a toccare le medie frequenze senza strumentazione, a orecchio, cosa cazzo vai a orecchio? Cosa devi fare a orecchio? Ah? Ci vogliono gli strumenti per allineare le radio, non ti vuoi buoni così a fare stronzate? E infatti i risultati già si vedono. Già li vedo i risultati, ogni tanto vorrei anche uno che un poco esce, un poco non esce, un poco sciafrusci, a pernacchie, non sono mai centrati, io è difficile che sento baracchini, soprattutto in banda laterale, centrati, bene, puliti, ordinati, sono pochi, sono quei pochi che non toccano niente, l'altro si buono a aumentare le LC, a tirare sulla potenza, a fare, a rifare, Sardini, questo non è, questo non è, questo non è. Per toccare quelle cose lì bisogna che hai il manuale davanti, leggi, questo potenziometro da toccare, questo trimmer da toccare, e tocchi quello, invece andani a intuito, no, questo non è, intanto lo tocchi, lo sposti, hai già fasciato tutto. No, no, quando attacchi poi il radiatore di spettro è tutto diverso, ma futti dite. Ho già visto queste cose, quindi ci vogliono le strumentazioni per allineare le radio, per toccare le radio. Non è così, non funziona così, io sono sempre al contrario. Io il cavillaggio non so manco quando ce l'ho al 4.30, l'avevo preso da Walter, ma forse ce l'avrò 10 anni. E una volta solo. Un amico mi ha cambiato il frequenzimetro, ma perché sa dove mettere le mani, però lo fa per hobby, ma tecnicamente è più preparato di uno che c'ha laboratorio, quindi me l'ha fatto lui, io mica l'ho toccato. Ho ordinato il frequenzimetro, ho cambiato, sono messo tutto in linea, fatto, a posto. Dice no, ma sono due spinetti, me lo diciamo io, le balle di mio nonno. Secondo la gente così, ma non è così però, capite? C'è da smontare tutto il frontalino, tra la radio, e io che non so giocattoli, si imbagliano che ti raffi tutto. Bisogna avere gli strumenti per fare cose, su tutte le cose, capite? faccio questo, cazzo. Se non c'è meccanico, non vuoi va tu. Ma è una fesseria. Non metti bene una molla, non metti bene un perno, non metti bene una tronzata. Cagati in farada, da frenare, non ti frena la macchina, ti ammazzi. Io infatti, lascio perdere oggi. Ci sono tante cose che purtroppo la gente cerca di improvvisare, ma non funziona così. Devi avere la capacità e soprattutto l'esperienza per toccare qualsiasi cosa. Se no, niente. Capito? Assolutamente. Non si toccala. Che ora sono? E andate, diciamo. Perché già avremmo venuto. Doppio route, dove sei? Facendo stavo, ma non fa, dai. Non fa? Faceva le radio, e tu la liscia, così la te ne frega. Domani compri la batteria nuova e gliela metti e sei a posto. L'importante è che sai che cos'è. Ne ho provato altre due batterie, ma non vanno, dai. Una era, diciamo, non era a carica al 100%, appena carica, ma forse non ce l'ha fatto. Non va manco con quella. Speriamo che non sia altro. Già, se c'è appena di carica, deve muovere. E si bassa, ma deve muovere. Non è che non ti fa uscire per niente. Sì, domani lo guardo bene. Metto la batteria, ti metto un po' di CRC e ti tiro, vedi quanti anni. Gappa. Ma usa quello per contatti, già quello a secco. Non mettere CRC, no. Beh, lo sai che con quello dei contatti una volta l'ho messo e non ha funzionato. Ho messo il CRC normale e cazzo me l'ha sbloccato. Rimane più oleoso, però magari essendo oleoso basta soffiarlo prima, non farlo impastare. Se lo fa impastare è peggio andare lungo. Devi soffiarlo prima con la bomboletta, quella che c'ha l'aria, e poi metterlo. E non succede nulla, Claudio. Te lo dico, te lo assicuro io perché l'ho fatto. E addirittura con l'altro per contatti non fa zia, questo boh, è una cosa allucinante. Non sono io, non ne ho CRC. So con lo spray per i contatti. No, già ce l'ho CRC, però è troppo oleoso. Già ce l'ho. Uso, vabbè, no, non mi è mai capitato così com'è. È capitato a te, però nelle parti elettriche, nei cosi a volte. Smonto i pomellini delle radio, nei potenziometri, le metto un po' di scarpe per contatti, è già fatto, però lì è diverso, lì la lamella magari ha bisogno di essere lubrificata diversamente, perché non è un contatto elettrico, è un contatto a coso, capite? Quindi magari con così lo sblocca prima. Io uso CRC Marina 66. 66 per contatti, è quello per contatti, anche quello che uso io. Per contatti, CRC Marina 66. 66, quindi è più di 40 o quindi sicuramente ci avrà un risultato superiore. Tranquillo che l'ho già usato, ce l'ho qua, guarda, 66 marine, e c'è scritto spray per contatti. E poi oggi o lo metterai a Gianni a pigliare roba scadente o a pulire immondezza, vuol dire l'ha già provato e va bene. Sì, mi ha sbloccato il microfono che non andava, ho provato prima quello secco, invece quello secco non lo lubrificava bene e non riuscivo a mollarlo. Specialmente in quello che usavo in macchina, che prendeva un po' di umidità in macchina. Per sbloccarlo ho usato quello lì e ha funzionato, adesso funziona sempre bene. Beh, certo che sì. Io ho fatto la finestra, sta di nuovo piovella di 8, ma dimmi, Duca, non ha rottura di barra questi cani, bro. Vuol dire lo porterò nel portico. porticato il cane, se sta piovendo così non esco nemmeno, l'ho portato sotto il porticato e via. Che tipo già vestia nell'acqua? Oh, anche l'ho portato sotto il porticato, capito? Fa la pipì, però se non c'è erba o terra lui gli altri bisogni non li fa. Mamma mia, Roma è troppo. Oh yeah, metti il cappottino, al mio non gli sta più, bisogna che lo copri nuovo. Già, io l'ho dovuto far fare a misura dalla amica Satta che abita qua nel mio palazzo. C'avevo un giubbotto grande, verdolino di lavoro, mi ha attaccato le maniche, mi ha messo la cerniera sotto a misura, fatto a misura, dai, alla pancia, ora non è entrato il mio. E quindi è dietro, è aperto e non si bagna, ma non cammina lui nell'acqua, non cammina, pare un guaio. Tu mai l'hai visto un cammina nel punta dei bedi, un cane cammina nel punta dei bedi? Ma che teso è così, evita le pozzanghere, ti porta verso il portone quando piove, non gli piace l'acqua. E così è Filippo, oggi amate si goccia, subito fa la pipì al portone, nulla, niente da fare. E devo attraversare praticamente dal mio palazzo, perché i porticati sono nell'altra scala, quindi qua ci sono 20 metri. Su, tocca a tirarlo. A volte mi bagno più io che lui. Capito? Poi quando sale mi fermo nel pianerottolo, prendo lo scottex, lo asciugo tutto, lo asciugo a manino. Lo faccio entrare, perché se no fa la casa beffa. No, lui già si cuture già prima. Dico scuote, ti taglia, si scuote. Cappare chi rimane a casa da barava. Dico scuote, ti lui si scuote. L'altro giorno gli ho detto, vai a bere, non hai sette, che stavamo correndo, non ne hai di sette. Oh, per paratura, andate a bevuto. Ho detto, diciamo un coso, non penso che sia che abbia capito così veloce, ma è andato subito come glielo ho detto. No, anche Filippo così già intuiscono, già intuiscono, capito? Poi c'è la mania che va bene, siccome io lo devo pulire poi il muso, possiamo fare le gocce. Allora c'è la mania, quando mi siedo a cenare, va bene, allora prima di cenare mi dico, vai a bere adesso, io vai, allora vai beve. E io lo pulisco il muso, asciugo il muso e poi mi posso cenare. Perché poi mi devo lavare le mani e passare la mucchina, capito? Eccetera, eccetera. No, ma anche Filippo si scuote giù nel portone prima di entrare. Il problema sono le zampe che se le bagna. E quindi le devo asciugare, sennò fa un casino a casa. Io ho lo straccio all'entrata, prendo lo straccetto e lo asciugo prima di entrare. Lo apro la porta, prendo lo straccetto, lo asciugo e poi lo faccio entrare e poi lo pulisco bene con le salviettine. E così faccio io, nel pianerotto non mi fermo. Mi preparo già l'asciugamano, pronto, lascio attaccata la porta fuori e quando asciugamanino su lo asciugo. È un travaglio. Arrivi l'estate, va a mollare in campagna, tanto si è divertito quest'anno. Mamma, ce l'hanno scosso, fisso Maria Gatti. Non lo vedevo mai. Non fa di altro che arrivi alla canendi, beveva, boom, e tornava a sparire. Poi tornava, c'è tutta la riuscita zia. Beh, Lugarie. Non ha giobesso, io ho già organizzato tutto, non sto facendo a Gianni, già spostato il computer, tolta la base, collegato il cavetto del monitor. È già tutto pronto, manca solo il cavetto VGA e poi posso accendere il computer. Asco, ma non è quello che vendeva i figli di Daniello, quella roba lì? Ah, non è lui, perché mi è sembrato lui, lo sai. Però ho detto, voi vinciate un me, va bene anche quello lì, un metro trasandato, c'ha barba lunga, bianca, ogni tanto lo vedo sotto casa a piedi, prima c'aveva la moto e andava con quella tipa, penso che ci fosse la moglie, poi non l'ho più visto, deve essere morta. Ciao Eugenio. Ciao Roma, ci siamo, ciao. Ehi. Vabbè, poveracci. Non sappiamo manco che fine facciamo lui, quindi è meglio non parlare. E cosa è successo? Ciao Eugenio. Mi sta chiedendo Eugenio già. Ciao Eugenio, ci sentiamo, dai, buona serata. E cosa è successo? Che no, ha messo su Facebook con un tipo, tipo un barbone così, alla fontanella. Non ho messo su Facebook, e poi lo già nel boccio, per carità di schifo che fa qualcosa, ma come io non l'aggio io. Luca! pensavo avesse messo qualcuno per così, ho capito. No, se ne vuoi pantaloni avrei buttato io, naggio un armadio pieno, non pazzi. Claudio, una volta alle Conce ero in compagnia anche, quindi te lo posso dire. Sono passato in macchina dove c'è la fontana delle Conce lì, no? Sono girato un fratello al mio che questo tipo era con i pantaloni varavara, buttando i pantaloni varavara e camminando tutto nudo. Con un coso contro dei pici furchi. No, così no, lì c'è l'arresto. Ti uscire in luogo pubblico, però se questo poverino non va a pantalone, non va a roba vitici, se mi dice vabbè la porto io una busta di pantaloni bui, di quelli che usava lavoro, imbottiti, giubbotti imbottiti. E questo che ho visto io era di passaggio, non penso che stesse nella zona, però si trascinava, hai capito com'era? Si trascinava, i pantaloni ce li aveva a livello delle scarpe, pantaloni e mutande, e lui camminava piano piano trascinandosi tutto, oh, il povero ci ha fatto una bella. Già, hai detto bene, non si sa mai che fine si possa fare, quindi non va bene prendere in giro queste persone, sono persone che hanno problemi. E vabbè. Beh raga, io mollo, dai, sono le 8, quasi meno un quarto, vado a portare il cane già, se non si fa tardi, e poi adesso mi ha smesso un pochino di piovere, scendo e lo porto, dai. Ciao, grazie di due chiacchiere, ciao Gianni, Eugenio, ti ho salutato, ciao Luca e chiunque fosse in ascolto sul 10, QRT per me, a domani, ciao a tutti. E ciao Claudio, ci sentiamo domani, dai, ciao. Avanti Luca. Lucariello. Tu non lo porti il cane? Eia, adesso vado, fra un po', verso le 8 lo porto. No, l'ho portato già stamattina, due volte, adesso lo porto adesso e a posto. È mia, allora di pranzo non esce, quindi lo porto un po' prima, 7:30 già, sono già in ritardo, mi vesto e vado, ciao già domani, ciao. E tu a Luna l'hai portata? Ah, ho capito. E adesso la stai trascurando un po', da. Ah, magari sono delle cisti, capito, più che tumori. Delle cisti che magari si possono anche togliere. Quando parlo io. Boh. Perché dove sono? Sul 20. Boh, ma io.